24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Ci siamo anche oggi, un po' più tardi, alle 6.35, ma siamo qui presenti, cari ascoltatori. Siamo in diretta fino alle 9, come al solito c'è Elisabetta Fusconi lì in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè, il solito, lì in regia, che mi aiuta come sempre a tirar su. Con la sua forza, lui con il mignolo tira sulla saracinesca. Una domanda, non ho intenzione di rilasciare nessun tipo di dichiarazione. Vabbè, l'abbiamo abbastanza capito, eh. Il caffè volentieri a tutti. Abbiamo capito che non parla, ma come sempre offre il nostro caffè a quella che il mercoledì, insomma, io sono molto contento, ormai abbiamo creato una coppia di fatto, possiamo dire così. Chi ride? Paola Saluzzi, che ti ridi? Paola Saluzzi, buongiorno, ben ritrovata. Ed è la conduttrice di Sky TG Pomeriggio. Alle 16 va in onda, io con gli orari... Alle 15 alle 17. Vedi? Facevo subito perdere tutti gli ascoltatori. Si sintonizzavano un'ora più tardi. E ciao. Alle 15. Saluto anche Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Buongiorno, ben ritrovato, direttore. Buongiorno. Eccoci buongiorno. Qua. Buongiorno. Eccoci, allora io, vabbè, tanto la Minetti l'avete sentita, no? Che offre sempre il caffè. L'avete sentita anche con questa storia del costume da bagno? L'avrete vista, sicuramente. Adesso, Luca Dini, non dirmi che non l'hai vista, perché ci sono quelli che fanno, no, io non l'ho vista sfilare. L'hai vista sfilare, sì? Purtroppo sì. Le foto, purtroppo. Come purtroppo? Minetti ti risponderebbe così, Nicole Minetti, come purtroppo? Scusa, cosa c'è di male a mettersi in costume da bagno? Vogliamo. Ah, perché le ragazze non si mettono in costume da bagno? Non si mettono. Ah, perché al mare la gente non va in costume da bagno? E perché chi fa politica non si può mettere in costume da bagno? Luca Dini, insomma, cos'è? Sì. Non ci si mette in costume da bagno al mare? Sì, al mare sì, esatto. Ma non so, diciamo che esiste anche una cosa che si chiama decoro della carica, eccetera. Boh, io non l'ho trovato un'eccellente idea. Un'eccellente idea. Sapete che ha fatto ieri Nicole Minetti? Oggi è sui giornali, era in consiglio regionale. È arrivato un assessore del Veneto, perché erano in trasferta per parlare. L'assessore Elena Donazzan, si sono incrociati alla toilette e le ha detto la Donazzan: ti devi dimettere, perché tu svilisci il ruolo delle donne in politica. E la Minetti ha risposto sprezzante: non ci dormo la notte per questa storia delle dimissioni, guarda. questa è stata, cioè, ma Paola Saluzzi, che dobbiamo fare per, no, ma per carità, io non è che voglio far dimettere, vorrei dire dividere la questione in due pezzi. Non lo so. Ormai il problema non è chi fa politica non si può mettere in questo bagno, la domanda è chi fa politica. Cioè, nel senso, capire dove sia il confine della politica, appunto, divisa in due pezzi, proprio due pezzi. Un bikini su cui ragionare molto. Il bikini della politica. Sì, abbiamo visto cose ben peggiori. Infatti, i titoli dei giornali che mi sono arrivati sono tutti su Napolitano, diciamo, che ha tuonato corruzione vergognosa. Questo è il titolo principale che trovate sulle parole di Napolitano. Ma tra poco parliamo di questo. Io vorrei però farvi ascoltare un audio. Elsa Fornero, ministro del welfare, perché ha rilanciato un dibattito, è finito un po' sotto traccia. Era un convegno dell'ABI, l'associazione bancaria. E sentite che cosa ha detto il ministro del welfare sul ruolo delle donne, o meglio, la rappresentazione delle donne in TV. Io vedo molto poco la televisione, però quello che vedo non mi entusiasma mai. E meno che mai mi entusiasma quello che vedo della rappresentazione femminile. Mi daranno della bacchettona, si inventeranno nuovi duelli con Belen, io non ho mai avuto, non mai neanche menzionata, ma voi ricorderete che quella volta in cui ho detto non ho visto il Festival di Sanremo, poi ci sono stati 15 giorni di discussione sul confronto tra Belen e Fornero, in cui adesso veramente questo è un povero paese. Avete sentito? È un povero paese. Paola Saluzzi è qui, insomma, tu che sei donna, fai TV, che ne pensi di questo? Beh, sicuramente la rappresentazione a cui fa riferimento appunto il ministro Fornero non ha a che spartire con la anche una grande quantità, una grande maggioranza, insomma, di donne che lavorano in televisione e che viceversa fanno e svolgono il proprio lavoro, ben inteso da donne, ecco, non mascolinizzandosi a tutti i costi, certo, mettendo una giacca grigia rigorosa e facendo... No, ma credo che lei si riferisse non alle professioniste dell'informazione, esatto, ma alla rappresentazione, a una certa rappresentazione, esatto, femminile. Siamo ancora qui. Fa stessi sentire il ministro, ecco, beh, ha detto la cosa giusta, cioè poi i giornali si riempiono per 15 giorni di queste polemiche. Ricordiamo un Sanremo meraviglioso con Fabio Fazio alla guida, che vide anche Renato Dulbecco sul palco. Sarebbe bello vedere sul palco di Sanremo i ministri. Ecco, così risolviamo la cosa e facciamo, insomma, una rappresentazione anche femminile molto, molto più particolare. La Fornero, quando parla, è precisa. È stata carina la frase che ha detto: mi darete della bacchettona, insomma. Sembra una mamma sazza che dice ai figli: so già che tipo di critica mi regalerete. E infatti sarà i giornali per i prossimi 10 giorni. Sarà un po' così. No, ma tra l'altro a me piacerebbe coinvolgere su questo Luca Dini, coinvolgendolo, sì, anche sulla prima pagina, la copertina che c'è oggi di Vanity Fair, con cui voi uscite in edicola, che è dedicata ad Annalisa Minetti, un'altra Minetti, l'altra Minetti, infatti, è detto Annalisa Minetti, che tra l'altro ha fatto una nuova impresa, quella di vincere le Paralimpiadi, non vincere, ha vinto una medaglia, insomma, non è arrivata prima, se non sbaglio, no, Luca Dini, cosa ha vinto? Sì, ha vinto un bronzo, però poi in realtà si è anche aggiudicata il record mondiale nella sua categoria, quella di non vedenti. Cioè, un bronzo che vale oro. Infatti, si può collegare a qui anche il discorso di una certa rappresentazione femminile, una storia diversa, anche il titolo, l'altra Minetti, è già evocativo, infatti, che voi mettete in prima pagina. E anche un commento su quello che ha detto il ministro Fornero, su questa rappresentazione delle donne in TV. Beh, sicuramente sì. Devo dire che, cioè, intanto bisogna ricordare che il ministro Fornero ha la delega alle pari opportunità, quindi parla assolutamente a proposito, è il suo ruolo. Ed è vero che è troppo facile liquidare la cosa come dicendo che il ministro è bacchettona. Cioè, è purtroppo la rappresentazione è quella che è, e ogni volta si sollevano polemiche assolutamente strumentali, però la verità è che, appunto, devo dire, l'altra Minetti, la Minetti prima, quella che ci offre il caffè tutte le mattine, tutti i mercoledì mattina, a me personalmente, è la dimostrazione di quello che è stata e che è ancora la rappresentazione della donna in TV. Ed è un fenomeno molto italiano, di cui, insomma, cioè, ignorarle veramente. Ma è davvero solo italiano. Io ricordo qualche anno fa Vanessa Incontrada, che lo fece un'intervista, dice: in Spagna sarebbe impensabile mostrare quello che viene mostrato delle donne in TV. È davvero così? Succede solo in Italia? Non è solo italiano, però è principalmente italiano, è molto italiano. Questo sì. È molto italiano. No, è lo molto sai... italiano, è molto arcaico, molto antico, molto molto. Beh, d'altra parte, purtroppo sì, chi fa TV in Italia, chi fa troppe cose in Italia è principalmente uomo, e diciamo sopra i 50 anni, ecco. E quindi riflette questo modo di essere, è così, Paola Saluzzi? Sì, da una parte c'è un ruolo femminile che è naturalmente legato, ed è anche bello, attenzione, se contenuto in uno stile, no? È bello che sia così, perché c'è la figura della valletta, c'è la figura della che non ha in sé niente di deplorevole o deprimente, però l'importante è capire come venga disegnato quel ruolo, e al di là del ruolo della valletta, ribadisco, sul quale tanto si è suonato, o anche sulle manifestazioni modello Miss Italia piuttosto che altro, sì, è chi interpreta quel ruolo, ecco, il problema è l'interprete, non è il ruolo in sé. A volte ti viene un po' da pensare, se ho una figlia femmina, la tengo lontana da rappresentazione di questo tipo, ecco. Leggerò con cura questo, come sempre, questo lo dico non per fare tirare fuori i violini, grazie, ma questo numero di Vanity Fair, perché c'è sempre una massima attenzione al ruolo della donna, questo sì, e l'altra Minetti è veramente un personaggio da spaccare il mondo, perché insomma sta ragazza appunto di, della serie, e meno male che vincevo perché ero sì, cieca, ma una che in TV poi è andata, ha fatto Sanremo, però poi si è ricostruita altre vite, altri percorsi. Mamma si è rimessa mia, in gioco, ma che ruolo, che grinta, che io l'ho avuta ospite tempo, poche settimane fa, ma che grinta strepitose, insomma, un grandissimo esempio in tutti i sensi. Una che ha fatto anche Miss Italia, tra l'altro, quindi una che è passata attraverso il programma che spesso viene anche considerato come l'emblema negativo anche della rappresentazione della donna. Invece no, però un pochino e devo fino dire. Fino a un anno e mezzo fa non correva, cioè incredibile. Infatti. Devo dire che però un pochino bacchettona il ministro Fornero appare. È così, ma al di là della dichiarazione di ieri. Francone Fiorito, Rocky Fiorito. Lei non faccia però, è un consiglio, poi lei può fare quello che vuole. Intanto da quello che ho sentito dall'altra puntata non accetto nessun consiglio, quindi se vuole dare un suo intervento lo dia. Da lei non accetto nessun consiglio perché non so lei nemmeno non che titolo abbia lei per darmi consigli a me, è chiaro, perché non so nemmeno chi sia lei. L'ho vista per la prima volta la scorsa settimana e nella mia vita come combatte nell'arena. Quindi vada a dare consigli a qualcun altro, se vuole faccia un intervento, ma la ringrazio, ma dei suoi consigli non ho bisogno. Io mi ricambio. Capito? Ma come si permette? Ma scusi, ma lei che fa nella vita? Chi la conosce? Che cos'è? Ma chi è? Niente, combatte menando fendenti. Io sono stato il primo degli eletti per 3 elezioni consecutive. Io vengo eletto da quando ho 24 anni per questo partito. Lei non ha fatto niente nella vita. Lei si deve informare. Io sono stato il primo degli eletti in Italia. In Italia sono stato il primo degli eletti. Quindi non prendo lezioni da lei. D'accordo. Ma si figuri. Non prendo lezioni da un uomo di lei. Molto prezzolato. Si vada a informare. Perché ha trovato pane per i suoi denti. Perché già la settimana scorsa ha trovato pane per i suoi denti, Fiorito dice. Tre filetti. Perché io ho una storia politica di tutto rispetto. Benissimo. È chiaro, io sono diventato sindaco a 27 anni. Ora ne parliamo. Sono due volte che sono il primo a dire più alla regione. Aspetti, però. E di certo non c'avevo quegli volumenti. Questo la prima campagna elettorale l'ho fatto in una canzone di casa. Fiorito. È chiaro. E lei non sa un cazzo per parlare. Eccolo qua. Il trionfo. Paola Saluzzi, ma come si fa a criticare uno che combatte così, Poi se la vedranno i magistrati. Potremmo dare degli spunti, ma voglio dire, il problema non è il pugile Fiorito sul ring, il problema sono le regole del combattimento. Ma certo, no, ma che uno legge oggi. Ovviamente, no, ma l'ho capito Alessandro, ovviamente il tuo stile, e anche saluto come sempre il grande Alpino in regia per la musica, per la scelta che voi fate, per la presentazione. E certo è dura pensare che abbiamo di fronte dei soggetti che non mollano la presa, certo. E che dicono sono eletto dall'età di 24 anni, insomma. Ma anche perché guarda, oggi uno legge i giornali e ne scopre di nuove. Fiorito, i bonifici all'ex compagna del papà. Questo ha fatto, poi forse si è pagato il mutuo coi soldi nostri, ovviamente coi soldi, poi a 50 anni prenderà il vitalizio da ex consigliere della regione Lazio, e poi dice mi ricandido. E come se mi ricandido? Perché non c'è problema. Allora questo è il problema, ovviamente a me piace come combatte, però c'è da dire Luca Dini anche che dobbiamo salvarlo per questo, cioè appare in TV dappertutto menando fendenti, dibatte colpo su colpo, non ammette nulla, dice mi chiederete scusa un domani. Ma siamo a un livello veramente pietoso, ecco. Dubito che gli chiederemo scusa. No, come macchietta è straordinaria, diciamo, se parliamo di commedia dell'arte. Come politico, cioè la cosa terribile, come diceva prima Paola, non è il problema è chi fa politica. Il problema è che nella Prima Repubblica uno così non sarebbe mai arrivato da nessuna parte. La vituperata Prima Repubblica. Il problema sono le regole che consentono a una persona così di arrivare a una posizione. Purtroppo non è l'unico, devo dire, sicuramente è uno dei peggiori, dubito che ce ne siano molti di peggio di lui, però è veramente un, diciamo, io penso che abbiamo toccato il fondo come sistema politico e partiti. Ma come se ne esce da qui? Il segretario del PDL Alfano ha detto, beh, con me ovviamente finché ci sto io non verrà mai più ricandidato, però ha detto, facendo un appello al Partito Democratico, non ricandidiamo nessuno degli attuali consiglieri regionali della Regione Lazio, non ricandidiamoli più, perché evidentemente vuole tirar dentro un po' tutti, no? Un po' tutti hanno giocato in questo sistema. Può essere questa la soluzione, Paola Saluzzi, oppure è una soluzione un po' così abborracciata, trovata all'ultimo momento? Non bisognerebbe, bisognerebbe mettere un veto su queste persone, perché? È sicuramente una proposta, ma si parla di gogna, insomma, molto spesso cigogna mediatica e non è la strada da seguire in questo momento. È chiaro che ci vuole una pagella, ci vorrebbe la patente, Alessandro, direttore Dini, ci vorrebbe una patente per giocare. Guarda, rubo la frase, ero l'altra sera con il grande Giulio Rapetti Mogol, il premio del SIN in Sardegna, Villa Cidro, quindi lui ha incantato la platea parlando di questo, dicendo ci vorrebbe la patente per guidare un paese nelle piccole e grandi cose. Se non hai la patente non puoi guidare un autobus, non puoi guidare una macchina. Ma chi la dà questa patente? Il problema è questo. Ecco, qua la patente, l'autoscuola dovremmo essere noi cittadini. Allora bisogna capire intanto attraverso nuova legge elettorale per quanto riguarda la grande politica intesa come elezioni a livello nazionale, ma capire anche la politica che non è più piccola, è regionale, è locale, altrettanto importante come vediamo, deve far sì che i cittadini diano la patente ai politici. Ci vorrebbero dei quiz, ci vorrebbero delle situazioni, ci siamo capiti. Sì, no, ma certo, ma quando vanno le Iene a fare i quiz davanti al Parlamento è un disastro. Io vi devo salutare, vi ringrazio, ricordo, grazie a Luca Dini, il direttore di Vanity Fair. Ciao Paola, c'è, buona giornata. Grazie ovviamente anche a Paola Saluzzi alle 15, ciao, alle 15 grazie. Su Sky. Vanity Fair, ricordate, c'è Annalisa Minetti, l'altra Minetti, non in copertina, non quella che ci ha offerto il caffè. È mercoledì 26 settembre. I titoli, il Sole 24 Ore apre sull'Eurozona verso il bilancio, questo è il titolo di apertura, poi tutti gli altri quotidiani su Lazio e sul monito di Napolitano, tutte le spese senza controllo e l'apertura del Corriere della Sera, per Repubblica costi della politica, il governo taglia, La Stampa, corruzione vergognosa, identico titolo per il Messaggero, sono le parole di Napolitano, l'Unità, la vergogna della corruzione. Il giornale, l'ultima di Batman, pensionato a 50 anni. Avrà il vitalizio, caro ascoltatori, Franco Fiorito. Sono casta, con la foto della Polverini, questo è il titolo del Manifesto, mentre il Fatto Quotidiano, i nostri che è champagne, i fondi per i disabili. Libero invece, per salvare l'Italia, via un politico su 5, questo è il titolo di apertura. Io voglio partire però da una pagina molto intensa di cronaca, ma non solo, che trovate sul Corriere della Sera, è pagina 19, la firma è un servizio di Giuseppe Guastella e riguarda le molte persone che soprattutto nelle grandi città si trovano agli incroci delle strade a chiedere l'elemosina. Molte di queste persone, se frequentate soprattutto le grandi città, avrete notato, sono affette da gravi forme di disabilità, sono storpi, sono zoppi, hanno magari degli arti amputati, si muovono in maniera molto claudicante. Ebbene, sono tutte vittime del racket, gli schiavi dell'elemosina, liberati decine di disabili. È un racket in tutto il nord, racconta Giuseppe Guastella, la guzzina e la gallina dalle uova d'oro. Date una monetina, per favore, aiutate questa poverina, piagnucola la donna indicando l'altra che Carponi trascina miserevolmente le gambe paralitiche. Due rumene chiedono la carità ai milanesi che entrano ed escono frettolosamente dalla metropolitana. Ebbene, Cocana, 31 anni, gravi handicap alle gambe che la rendono tragicamente preziosa. Un anno fa i suoi genitori adottivi l'hanno venduta a Kemal Pomak per 2.000 euro, caricata su un furgone come una bestia, e da Costanza, città del Mar Nero, è stata portata come altri 27 schiavi rumeni, incapaci di scappare. A Milano, rinchiusi in un lager, in balia di un gruppo di connazionali di etnia rom e turca. erano tenuti in un campo in via Calchita Egira, periferia ovest di Milano, in condizioni di riduzione schiavitù aggravata, in condizioni terribili. Dice la polizia che ha sgominato questa banda tutto con totale disprezzo, non solo per le più elementari regole di convivenza civile, ma anche del naturale senso di pietà e umanità, così scrive il GIP Simone Luerti. In baracche fatiscenti, con materassi sfondati posati sul cemento tra cumuli di spazzatura, in mezzo ai topi, con regole ferree, ciascuno schiavo, si usa questa parola, schiavo, ha un padrone che lo controlla mentre chiede l'elemosina nelle stazioni della metropolitana, ai semafori degli incroci, e al quale deve consegnare ogni moneta che riceve. 10-12 ore di lavoro, pioggia o neve non contano, un pasto con patate lesse, qualche ala di pollo e un tozzo di pane, ma neanche tutti i giorni, perché più si è magri e macilenti e più si fa pietà. E, è una lettura molto intensa, molto dura. C'è anche un commento di Isabella Bossi Fedrigotti in prima pagina del Corriere, dal titolo «E noi che cerchiamo di non vederli». Scrive Bossi Fedrigotti: «Da anni li troviamo ai semafori e grandi incroci di tutte le nostre città, senza che ormai nemmeno più tentino di sembrare quello che non sono, lavavetri. Sono gli schiavi dell'elemosina, professione storpio. È la loro, che più storpio non si può, e noi che passiamo in macchina, sia che allunghiamo la moneta, che chiudiamo i vetri dando un'accelerata, cerchiamo di non guardare per non vedere le loro gambe, quando ci sono, orribilmente stortate, i loro piedi, quando ci sono, deformati, i loro moncherini di braccia, mani, dita. E la domanda che ci facciamo sempre, dare o non dare? Cioè, dare una moneta o no? La maggioranza... Così sembra da un pezzo non da più, ma se i grandi incroci sono ancora regolarmente piantonati è segno che gli aguzzini, a loro vale sempre la pena piazzarvi le loro infelici pedine, i loro schiavi, anzi, come sarebbe più giusto dire. E sebbene perfino i parroci abbiano sconsigliato l'elemosina per non alimentare il business del racket, la tentazione, l'istinto di allungare una moneta a quei derelitti estremi resta. Andrà a loro? Ci si chiede. Si finisce per dare allora, sbagliando, si sa, per un resto di pietà che ancora non è morta, per assuefazione allo spettacolo della miseria o anche solo per poter in fretta passare oltre senza più essere costretti a guardare quelle spaventevoli maschere della tragedia umana che si affacciano ai finestrini, che a volte bussano al vetro, che chiedono, supplicano, reclamano. Beh, ripeto, è una bella pagina, bella non ovviamente per i contenuti, ma meritoria quella che fa il Corriere della Sera su questo poi arresto di una banda di rumeni che sfruttava, schiavizzava propri connazionali con questo sistema. Come fare un triplo salto carpiato e arrivare da qui a Nicole Minetti? Lo faccio perché prima della pubblicità vi devo raccontare l'ultima, che riguarda la consigliera regionale della Lombardia. Non c'è pace per Minetti, lite con la collega alla toilette. Questo è il titolo del giornale a pagina 9, ma anche il Corriere della Sera, con lite fra donne PDL. Ieri alla regione Lombardia c'era in trasferta un assessore del Veneto, una donna, Elena Donazzan, che ha fatto, l'ha seguita nei bagni, ha seguito la Minetti nei bagni, perché come racconta la stampa in un'intervista a pagina 9, volevo incontrarla in un luogo discreto, mi sono presentato, mi ho detto sono l'assessore del Veneto, Elena Donazzan, gli ho dato la mano e gli ho chiesto, ti devi dimettere, perché svilisci il ruolo della donna in politica. Replica della Minetti, questa è la versione di Elena Donazzan, replica stizzita della Minetti: non ci dormo la notte per questa storia delle dimissioni, ovviamente per fugare qualsiasi tipo di risposta su questo. Tra l'altro una Nicole Minetti che in realtà la sua versione ufficiale l'ha detta, ma chi è questa Elena Donazzan? Poi ha detto ai giornalisti: non la conosco, mi si è presentata una, ho sentito dei rumori in bagno, evidentemente aveva mal di pancia. Insomma, Nicole Minetti, alla quale Elena Donazzan ha chiesto devi dimetterti, risponde non ci dormo la notte. L'intervista a Elena Donazzan la trovate a pagina 9 della stampa, intervistata da Fabio Poletti. A un certo punto si toglie anche lei un sassolino dalla scarpa alla domanda: la Minetti che è da mandar via dove la metterebbe? Umido o sacco nero? Diciamo che c'è molto da riciclare. Questa è la risposta dell'assessore del Veneto Elena Donazzan su Nicole Minetti. Vabbè, tiene banco ancora sui giornali la vicenda della Regione Lazio. Ieri, tra l'altro, il capo dello Stato parlava a studenti in una cerimonia d'apertura del nuovo anno scolastico al Quirinale, a studenti, insegnanti, al mondo della scuola, ha parlato di una corruzione vergognosa. Episodi inimmaginabili, ci vuole un risanamento profondo contro l'antipolitica. Potete seguire sul Sole 24 Ore, pagina 11, un po' il racconto della giornata di Napolitano e questa uscita molto molto dura. D'altronde, quello che succede alla Regione Lazio, e guardate che oggi vi anticipo già, ci sono delle uscite, delle interviste, cari ascoltatori, che non posso non leggervi. Una sempre al solito Francone Fiorito e una al presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia. Tenetevi forte per quello che diranno, ma arrivano tra poco. Prima, vista la situazione, il premier Mario Monti pare pronto, è in trasferta a New York in questi giorni, pare pronto a tagliare i costi della politica anche con un blitz. È un retroscena di Liana Milella a pagina 3 di Repubblica. Il premier pronto al blitz sui costi della politica. Serve un colpo d'ala, dobbiamo agire subito. Tra l'altro, aperta parentesi, ci ricordiamo che è stato nominato un super commissario, cioè Giuliano Amato, per rivedere il finanziamento dei partiti, vedere cosa c'è che non va, chiusa parentesi. No, giusto per ricordarlo a tutti, visto che in Italia abbiamo la memoria corta. E infatti, scrive Repubblica, Amato è al lavoro sul testo, c'è anche l'ipotesi di un decreto. Si accelera anche il voto sull'anticorruzione. Insomma, l'obiettivo di Palazzo Chigi, del premier Mario Monti, scrive Repubblica, è questo: penso ad associazioni in cui i cittadini discutano, si confrontino, controllino, penso a una soluzione di creare un sistema di finanziamento privato che consenta al cittadino di elargire in funzione di un determinato servizio politico che il partito gli garantisce. Questo quello che è la versione di Amato, di Giuliano Amato, il super consulente al taglio ai partiti. E anche il Secolo XIX batte su questo tasto. Giarda, cioè il ministro per i rapporti con il Parlamento, annuncia si farà un decreto contro le spese folli. Insomma, la situazione sembra di buoi scappati dalla stalla in maniera evidente, e quindi il governo pensa a un argine da porre subito con un decreto. I dettagli del testo e dell'articolo lo trovate con Giovanni Palombo sul Secolo XIX, appunto, testo pronto in 10 giorni, con Giarda che ha detto ai parlamentari: guardate che l'ipotesi è quella di un provvedimento d'urgenza. Giarda ieri ha avuto colloqui privati con diversi parlamentari e non ha escluso questa strada, dicendo serve mandare un segnale subito. Chi chiede chi ha chiesto ieri in prima persona, è tornato tra l'altro tra la gente, si è fatto vedere dopo un periodo di lungo silenzio, prima un'intervista con Huffington Post Italia, il nuovo sito in Italia, sito internet, e poi con un viaggio Roma-Milano in treno, è Silvio Berlusconi che in questo viaggio, racconta il Corriere della Sera, pagina 2, ha chiesto anche in maniera chiara questa cosa: bisogna abrogare il finanziamento dei partiti. Silvio Berlusconi, che tra l'altro ha detto: devo dire che il treno è comodissimo, non è certo l'aereo, sono due cose diverse. Una dichiarazione che non sembra di una persona molto calata nella realtà. Sono due cose diverse, il treno, l'aereo, ma anche il treno è comodissimo. L'ha scoperto alla sua veneranda età che anche in Milano-Roma è un buon mezzo di locomozione il treno. Comunque, Berlusconi ha detto: bisogna evitare che l'Italia finisca in mano a soggetti che in comune non hanno proprio nulla riguardo alla politica, vale a dire al centro-sinistra. Ma poi ha parlato di PDL non allo sbaraglio e di questa proposta, abrogare il finanziamento dei partiti. Un'altra proposta l'ha fatta invece il segretario Alfano del Popolo della Libertà a Bersani: facciamo un patto per non ricandidare tutti i consiglieri del Lazio. Cioè, noi non ricandideremo Fiorito o un Fiorito, ma anche voi non ricandidate quelli del PD. In qualche modo risponde Bersani, che fa un'intervista oggi al Messaggero, il segretario del Partito Democratico, intervistato da Barbara Jerkov, dal titolo l'intervista Degenerazioni e sprechi, ripensiamo il federalismo. Dice Bersani: Il caso Lazio ha rivelato aspetti assolutamente indecorosi, sconvolgenti, che hanno colpito la gente per bene. Chi fa politica con onestà e coscienza si sono sentiti insultati, infangati da una vicenda drammatica e tristissima. Anche noi del PD vogliamo trarne un insegnamento. Ma la proposta di Alfano, appunto, di non candidare anche quelli del PD al prossimo consiglio della Regione Lazio, dice Bersani, certamente noi il rinnovamento lo faremo, ma questa di Alfano è una provocazione che respingo al mittente. Perché questi hanno sguazzato nel fango e ora lo stanno mettendo nel ventilatore? Possiamo aver fatto degli errori, ma noi, lo ripeto, di fiorito non ne abbiamo, va bene? Questa è la risposta piccata di Bersani alla proposta di Alfano. Ed eccoci qua, Francone Fiorito, questo personaggio che va ovunque, appare ovunque, combatte con chiunque, dice mi chiederete scusa, mi ricandido, e uno legge i giornali, breve carrellata delle ultime novità dall'inchiesta. Fiorenza Sarzanini, pagina 5 del Corriere della Sera, quei bonifici di Fiorito prima di lasciare ai collaboratori esterni 700.000 euro, cioè prima di lasciare, poco prima di lasciare il posto da capogruppo, ha fatto una serie di bonifici, racconta il Corriere della Sera, a suoi collaboratori, anche secondo il Secolo XIX, Domenico Lusia, pagina 2, alla ex compagna del suo papà. Fiorito, 5 bonifici all'ex compagna di papà. Eccolo qui, vari bonifici. Tra i bonifici, poco prima di lasciare il posto da capogruppo, ha fatto versamenti un po' ovunque. Un totale di 243.000 euro sono finiti in 3 mesi in Spagna, dal 21 marzo al 2 luglio scorso. Sempre in Spagna, a Tenerife, vive Mirel Rejor Lussi, arredatrice di interni, pittrice, destinataria di 5 bonifici per un totale di 30.000 euro usciti dal conto del gruppo PDL. 2 da 5.000 euro ciascuno, con il giustificativo per collaborazione, non si capisce, e altri 3 pagamenti il 12 giugno a titolo di rimborso. Di chi si tratta? Si tratta della ex compagna del padre di Fiorito, che è morto 4 anni fa dopo aver vissuto a lungo nell'isola spagnola. Tra l'altro Batman Fiorito, che scrive il giornale a pagina 8 con Paolo Bracalini, cade in piedi. A 50 anni, cioè tra 6, 7 anni, 8 anni, quanto anni? Circa 40, avrà il super vitalizio, 4.000 euro al mese, grazie alle vecchie norme rimaste in vigore. Un allarme lanciato dai radicali. Quindi sappiate, cari italiani, che comunque vada a finire, si ricandiderà, non si ricandiderà, non si sa, a 50 anni Batman Fiorito avrà 4.000 euro al mese di vitalizio pagato da noi altri. Ed eccolo, Batman Fiorito, in una spettacolare cena raccontata da Pierfrancesco De Robertis, colui che tra l'altro ha scritto il libro, no, sulla casta delle regioni, libro uscito con un teppismo straordinario, responsabile del quotidiano nazionale della redazione di Roma, metti una sera a cena con Er Batman. Non sono un mostro e stavolta pago io. Leggete il resoconto di questa cena, pagina 6 del quotidiano nazionale, 1:30 di notte in un ristorante di Milano. Si accomoda Fiorito, il cameriere prende l'ordinazione. Un po' di prosciutto, abbiamo pata negra, San Daniele e toscano. Tutti e tre, risponde Batman, e già me lo vedo con questa voce, no? Anche perché l'intervista è tutta trascritta con l'accento ciociaro di Fiorito. E basta con sto Batman. Anzi, ora vi racconto una barzelletta. C'è un ubriaco che di notte incontra una suora, e allora boom, un colpo in testa, boom, un calcio negli stinchi, boom, un cazzotto nello stomaco. Poi s'abbassa e gli dice: a Batman, te credevo più forte. Questo è l'esordio della cena di Fiorito. Per dire che Batman è un'invenzione, come sono invenzione le ostriche, manco le magno io le ostriche. Insomma, ma lei è una vittima. Ma no, non dico questo, ma non c'è un limite a tutto, alle invenzioni. Comunque presto finirà e vedrete che ne esco pulito. E poi, eccolo qua, sono diventato il mostro dei anagni. Se l'Italia va male è colpa mia. E poi parla della Polverini, lasciamo sta che è meglio. La Polverini dice che non sapeva niente. Sì, vabbè, mo ce credo. Questa è la risposta di Fiorito. E i nemici interni, Battistoni. Sentite cosa dice di Battistoni. M'hanno voluto far fuori. Allora, dopo che hanno messo in mezzo, sono stato io a dire un po' di cose. Le ostriche, l'amante di Battistoni, che poi non è nemmeno un granché st'amante. E conclude la cena guardando il giornalista De Robertis e fa: e comunque De Robè. Ricordati di darmi un po' del royalty del tuo libro sulle regioni, perché senza stu casino non te se inculava nessuno. Ecco, Francone Fiorito. E che dire invece del presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia, Francesco Cascio, che fa un'intervista anche questa a suo modo spettacolare, quasi da van spettacolo, alla stampa Laura Nello. Eccolo qua, siccome ora anche sulla Sicilia le spese, i fondi riservati ai gruppi, all'Assemblea regionale siciliana sono finiti nel mirino dei magistrati. Questo ne parla il Messaggero, ne parlano tutti i giornali, anche la stampa. Spese troppo alte, la Sicilia finisce nel mirino dei PM. Ecco che Laura Anello va a intervistare il presidente della regione Sicilia, dell'Assemblea regionale siciliana, il Consiglio regionale siciliano, Francesco Cascio. Udite, udite. Cari ascoltatori, eccoci qua. Lei ha speso l'intero budget di fondi riservati di 380.000 euro. Ci può dire come? Sentite la risposta di Cascio. Beh, in assistenza e beneficenza per la maggior parte. Le faccio qualche esempio. Se c'è la processione di San Giuseppe al paese di Sant'Agata di Battiati, concedo un contributo. Se c'è un crocifisso da restaurare in quello di Trappeto, idem. Se c'è un congresso di livello, offro il buffet. L'altro giorno ho sostenuto il torneo di badminton regionale, a volte una banda musicale, piccole somme da 1.000 a 3.000 euro ciascuna. Scusi, ma non teme di essere accusato di aver alimentato così un sistema di clientele? Che sono clienti forse le parrocchie, le associazioni sportive, i comuni? Quanto alle persone, mi creda o no, non le conosco neppure. Io valuto la domanda, chiedo il modello ISEE, il certificato di famiglia, per avere la certezza che sia una necessità reale. Ecco, il torneo di badminton regionale, un crocifisso qua, un buffet là, così vanno a finire i soldi affidati al gruppo, in questo caso il presidente Cascio dice i 380.000 euro. È tutto detto con una semplicità come se fosse assolutamente normale. È normale anche, come scrive il Fatto Quotidiano a pagina 3, sempre sui conti della Sicilia, che scrive Giuseppe Lobianco, finora erano segreti quasi come i segreti di Fatima, ma ora qualcosa si sta svelando su questi conti. Ma io non ci voglio credere, ma le più fortunate, scrive Lobianco, sono due signore del PDL, entrambe pensionate ma riaggregate al gruppo per amministrarne i conti. Sono Margherita Messina, che ogni anno mette in tasca 170.000 euro, e Susi Scalia, per lei una cifra di poco inferiore, anche se c'è un deputato che giura siano due i dipendenti che guadagnano 220.000 euro, sì, al mese, qua ci sarà un errore, all'anno. Ce n'è uno che guadagna 150.000 euro per fare fotocopie. Bellissimo, cioè, chi non farebbe un lavoro fare fotocopie 150.000 euro l'anno, pagato così, magari anche con qualche indennità, per fare fotocopie. Addirittura, secondo il Fatto Quotidiano, c'è un deputato, Fabio Mancuso, capogruppo dal 2004 al 2006 del gruppo UDC, che in quel periodo ha staccato assegni per 965.000 euro ai vari casinò italiani, debiti non tutti estinti, se è vero che il casinò di Venezia gli ha notificato un pignoramento del suo stipendio per 326.000 euro. Quindi, secondo il Fatto Quotidiano, evidentemente questo ex deputato giocava abbastanza nei casinò, soldi suoi, non si sa. E ormai si sta svelando questo sistema, per cui quando uno legge la notizia dell'arresto all'interno del Senato, ma di un dipendente delle poste, o meglio il direttore delle poste del Senato, arrestato per cocaina, beh, verrebbe da dire, come sul Quotidiano Nazionale commenta il senatore di Coesione Nazionale Menardi: ogni giorno qui è peggio, ditemi una cosa assurda e domani si avvererà. Effettivamente sembra così, cioè, non, come dire, Il pusher lavorava al Senato. Questo è il titolo del Corriere della Sera. È vero, i senatori dicono: guardate, che era il direttore delle poste, è stato fermato, accusato di essere in una banda di trafficanti di droga. Però proprio lì al Senato, cioè non c'è giorno veramente che sulla politica non si scateni una massa di polemiche. Beh, vince anche come battuta forse il senatore PD Giovanni Legnini: dalla Polverini alla Polverina. Questo è al Senato, non c'è un giorno di tregua. Anche Repubblica racconta l'imbarazzo degli onorevoli, soliti sospetti. Qui almeno uno su 10 fa uso di droga, dice per esempio un senatore anonimo. Qui uno su 10 fa uso di droga in Parlamento. Sta di fatto che non è un politico, è il direttore delle poste del Senato che è stato arrestato, fa parte di un giro di spacciatori secondo l'accusa. Che dire? Meno male che Draghi racconta, dice il Sole 24 Ore, ci sono segnali di ottimismo in Europa. Ecco, guardiamo un po' all'Europa, perché se guardiamo ai confini nazionali, almeno per quel che riguarda la politica, c'è solo da mettersi le mani nei capelli. Mario Draghi racconta Alessandro Merli da Francoforte, ieri era a Berlino, ha parlato in Germania dell'importanza di continuare su questo sostenimento dell'euro, visto che la Germania e la sua industria sono i grandi beneficiari dell'euro, e anche l'opzione di dire no a tutto, ha detto Draghi, un trasparente riferimento alla posizione irremovibile della banca centrale tedesca, è più rischiosa dell'azione proposta dalla BCE per riportare alla normalità la situazione dei mercati finanziari dell'area euro. Dunque Super Mario Draghi, che è andato un po' a cantargliele ai tedeschi, permettetemi insomma di metterla un po' così, in maniera molto molto brutale. Che dire, devo chiudere, c'era tutto il tema dell'ora di religione, il ministro Profumo eccetera, no, ma voglio chiudere con questa freddura molto molto secca, molto pungente, anche molto sfrontata, di Iena, Riccardo Barenghi sulla Stampa. Sapete che oggi c'è il verdetto di Cassazione, ieri era la nostra ospite il direttore del giornale Sallusti, che rischia per un processo di diffamazione 14 mesi di carcere per un articolo pubblicato nel 2007 su Libero. Tragedie, scrive Iena. Sallusti in galera sarebbe una tragedia per gli altri detenuti. Per l'attualità politica vogliamo ancora parlare della regione Lazio. Dopo le dimissioni della governatrice Renata Polverini, con noi c'è Francesco Storace. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto, leader della destra, ex governatore anche lei del Lazio, attualmente consigliere regionale. Lei è di quelli che dice la Polverini non doveva dimettersi, ma come mai? Semplicemente non è indagata lei, sono indagati altri, e al contrario della reazione del Parlamento, che ha balbettato per mesi tagliuzzando la metà dell'ultima tranche del rimborso quando si è discusso il finanziamento pubblico ai partiti dopo il caso Lusi, in 5 giorni ha tolto tutti i fondi che c'erano per i gruppi consigliari. Credo che insomma abbia dato una lezione al Parlamento. Però si è dimessa lei, il Parlamento non è stato sciolto, cioè lei doveva sapere quello che combinava Fiorito, mentre che so Rutelli non doveva sapere quello che faceva Lusi. È un po' curioso. Però siccome veniva deliberato tutto nell'ufficio di presidenza, sappiamo che è un organismo autonomo il consiglio regionale, in quell'ufficio di presidenza c'è anche per esempio un consigliere della lista Polverini che non sapeva, no, non riferiva alla Polverini che succedeva in quell'ufficio di presidenza. È un po' surreale. Guardi, io sono orgogliosamente iscritto alla destra e il PDL scientificamente evitò che un consigliere della destra entrasse nell'ufficio di presidenza, quindi quello che è accaduto là dentro davvero è difficile chiederlo a me. No, questo sì. A me magari si può rimproverare di aver avuto solo 2 consiglieri in assemblea. Se ne avessimo avuto di più, la nostra proposta, di cui i media non hanno mai parlato, sul dimezzamento dei costi della politica presentata tra gennaio e febbraio, magari avrebbe evitato tutto questo casino. No, ma io per dire che la Polverini si fa fatica a pensare non sapesse quello che succedeva in ufficio di presidenza, visto che vi sedeva un suo consigliere. Secondo lei Monti sa quello che accade nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, anche se ci sono i partiti della maggioranza che lo sostengono? Io vorrei che dicesse le cose come stanno. Il presidente di una regione ha il dovere, dico il dovere, di controllare i bilanci delle ASL, tanto per dirne una, e non ha diritto, ripeto, non ha il diritto di controllare i bilanci. Sa perché? Perché sempre dei gruppi, se il Presidente della Regione avesse il diritto di controllare i bilanci dei gruppi, questo varrebbe anche per i bilanci dei gruppi dell'opposizione. E lei ritiene normale che una democrazia il finanziamento a un gruppo di opposizione lo controlla il capo della maggioranza che contrattano? Ma neanche... Credo che questo si dovrebbe fare una bella riflessione. Non è così. I bilanci dei gruppi sono autonomi esattamente come in Parlamento, solo che in Parlamento nessuno lo nota. Sì, beh, però Monti non è espressione di un partito, voglio dire, cioè lì c'era ma vale un po'. Anche, ma vale anche con un soggetto politico. Non è quando Berlusconi era il capo del governo e che si metteva contro il gruppo parlamentare PDL, controllava i conti dell'Italia. Cioè, sì. Io vorrei che si dicessero le cose come stanno, non c'è una sola competenza affidata al Presidente della Regione sul controllo dei bilanci. No, lei che è stato Presidente della Regione. E le dico di più, se permette, ma non sarebbe stato grave se la Polverini avesse saputo che cosa faceva col suo conto corrente Franco Fiorito? Davvero avremmo superato ogni limite. Sì, no? Beh, questo sì. Però, allora, per esempio, Repubblica scrive che le delibere, visto che lei è stato presidente di regione, ci può dare una risposta. Le delibere prese in ufficio di presidenza chiedono necessariamente uno stanziamento di denaro anche da parte della giunta e quindi del governo e quindi della governatrice. Anche oggi, anche la Camera, quando. Quindi insomma si poteva sapere quei finanziamenti. Allora, si poteva anche sapere, ma non si poteva intervenire. Quando Fini o Schifani scrivono al Ministero dell'Economia e mettono nero su bianco la dotazione dei due rami del Parlamento, il governo deve pagare e basta. Non è che c'è una discussione su questo. Ha visto quante volte si è detto noi possiamo ridurci i nostri compensi ma non quello delle Camere, perché c'è una sfera di autonomia l'autodichia, che è garantita dalla Costituzione. L'autodichia, sì, questo principio. Credo che non sto dicendo una cosa che non no, c'è l'autodichia, detto, per cui è un principio inviolabile. Non è detto che il cittadino comune debba sapere queste cose ed è giusto quindi non inquietarsi quando ti pongono la domanda. Il problema è quando la fanno gli addetti ai lavori, che insomma, diciamo, voglio dire, non sono proprio ingenui, ecco, le sanno le cose. Senta, come si dice su Twitter, sapevatelo. Francone Fiorito, com'è possibile che la politica abbia prodotto, al di là poi i magistrati se la vedranno, abbia prodotto un personaggio del genere? Ma guardi, lei ha una visione antropologica della politica. Beh, forse dovremmo riscoprirla un pochino, l'ombrosiana anche magari. La teoria l'ombrosiana dico non si può applicare. Franco Fiorito ha fatto politica nel suo partito, si è candidato alle elezioni nella lista del suo partito e gli elettori del suo partito l'hanno votato. Il Popolo della Libertà. Bisogna chiederlo a loro. Io ricordo a Frosinone noi avemmo molte difficoltà, pensi, che la prima occasione in cui la destra si presentò fu alle europee del 2009 con le provinciali in quel territorio, a livello amministrativo parlo, e prendemmo la performance migliore in tutta Italia, alle regionali quella peggiore, indovino un po' perché. Perché? Perché c'erano campioni delle preferenze all'epoca, poi insomma... come hanno fatto i soldi lo stiamo verificando. Senta, però, ma è bene che non ci sia più, perché c'è questa proposta di Alfano che dice certo un Fiorito e questi qui non li ricandideremo più, e ha detto e anche il PD faccia lo stesso, cioè si vuole un repulisti della politica. Ma guardi, se il PDL sta annunciando che non intende candidarsi alla presidenza della regione, perché è un po' buffo, no? Dire non candido i consiglieri, anche quelli che magari non sono stati coinvolti, è una scelta legittima che fa anche onore ad Alfano, e se saremo alleati io posso garantire lealtà nel non raccogliere quelli che lui manda via dalla lista. Però, perché è vero che la stanno chiamando? È vero che la stanno chiamando? Diciamo che se fosse stata questa intervista un po' più tardi avreste rischiato di trovare il telefono occupato. Cioè, ma non so, Francone, perché questi qui ovviamente al PDL, al PDL nessuno li candiderà più, immagino, e quindi stanno chiamando lei. Qualcuno sta chiamando lei. La guida poi della regione, io voglio capire chi si candida. Perché se poi chi si candida sono gli stessi che hanno determinato tutto questo macello muovendo le fila dall'esterno, diventa imbarazzante. Sì. Allora, io come fanno, che poi ci parlo, capisco l'amarezza e sbaglia chi vuole infierire su un solo partito, però nemmeno si può dire c'entravano tutti, ma tutti chi? Qui veramente, io ricordo il 2011, l'ho messo anche online nel nostro bilancio perché non abbiamo avuto problemi, abbiamo fatto oltre 50 convegni sul piano casa, parte di questi sono conclusi con incontri conviviali con amministratori, elettori, cittadini, sì. Ma non è un punto d'onore questo, non è che siamo andati a fare i festini noi. No, questo allora, sì. Se c'è chi ha sbagliato la concezione della politica, se chi ha confuso i fondi ai gruppi consigliari con contributi imprevisti da nessuna, non previsti da nessuna legge ai consiglieri, ha sbagliato mestiere, ha fatto bene a Polverini a azzerare i fondi, sono felice di aver votato per l'azzeramento dei fondi ai gruppi, punto. Si ricomincia dicendo ai cittadini il Lazio ora è in una posizione migliore rispetto alle altre regioni, sì, che non hanno tagliato questi fondi e ogni giorno scopriamo che ce ne hanno a iosa anche loro, nel Lazio non ci sono più, punto, e si va avanti. Alla riga però voglio dire, poi le responsabilità penali verranno ma questo sì, però la notizia è che ci sono alcuni impresentabili ormai per il PDL che la cercano, ma lei ne candiderebbe, c'è cioè un Francone Fiorito lo candiderebbe, mister preferenze. Guardi, io resto un garantista, ma qui non è un problema penale, è un problema di uso disinvolto delle gestioni pubbliche. Poniamo il caso che si potrebbe anche essere prosciolti, assolti dalle accuse, ma questo non significa che puoi usare il denaro pubblico come ti pare. Questa è una questione che secondo me non va bene e quindi io non candiderei chi ha fatto queste cose. Poi ci può essere quello che ha fatto il peccato veniale o il peccato mortale, comunque io non mi metterei a giocare con un partito alleato andando a rubare i candidati. Su questo io credo di aver dimostrato anche in passato sufficiente lealtà. Tra l'altro Fiorito a 50 anni prenderà il vitalizio, lo trova scandaloso questa cosa? Guardi, se non si fosse costretta a sciogliere il consiglio regionale, la Polverini aveva annunciato una riforma per il contributivo anziché il sistema vigente e probabilmente saremmo risparmiati anche questa, però non si può pretendere il contrario di quello che si è preteso di fare, o l'una cosa o l'altra. Sì. Ultima domanda, gli ultimi tre governatori, insomma lei, Marrazzo, Polverini, per motivi ben diversi, ma non avete portato a termine il che c'è la maledizione? No, io l'ho portata a termine. L'ha portata a termine, allora no, ricordami. Poi ho avuto anch'io una disavventura, sì. A 15 giorni dal voto, e dissero che avevo compiuto un'azione di spionaggio, poi fu derubricata all'incursione anagrafe. Sì. Fatto sta che fra un mese ci sarà la sentenza preceduta da una richiesta dell'accusa, sì, che ha detto che mi devono assolvere perché il fatto non sussiste. Però insomma c'è un po' di maledizione, sì, su questa poltrona. Ecco. No? Mi piacerebbe poter dimostrare il contrario. Diciamo. C'è una maledizione però sulla poltrona del Presidente della Regione Lazio. Insomma. Sono pronto a dimostrare il contrario. Cioè che, ho capito però, ma non ricandidandosi, no. E chi lo può dire? Ma se ho letto sul Corriere che forse vuole lasciare la politica lei? Io sto ragionando molto sulla forma partito, sulle forme della politica attuale. Io vedo un cinismo incredibile, proprio perché mi ha fatto male la vicenda della Polverini. Non siamo stati capaci di comunicare la verità, probabilmente, perché non si spiega, tutti ce l'avevano con una che ha fatto pulizia e non era stata indagata. E allora vedo molto cinismo nel paese e nella società. Altra cosa è il territorio. Sì. Io la passione non è che me la può togliere qualcuno, no, si vive. Quindi Storace forse si ricandida? No, Storace vuole capire anche da un altro punto di vista, perché sta per iniziare un'avventura editoriale. Se vuole do anche la notizia, dal 10 ottobre saremo online col Giornale d'Italia, la testata che abbiamo acquistato con i soldi nostri, online. Che non avrà fondi pubblici, andrà sui computer di tutta Italia e sarà un bellissimo giornale, sì, e quello accompagnerà il mio impegno politico, magari una forma diversa, ma ho il dovere di parlarne prima domenica al Comitato Centrale del mio partito, cioè, questo è un momento importante. Non escludiamo nulla. Va bene, intanto la ringrazio, buona giornata a Francesco Storace, leader della destra, consigliere regionale della Regione Lazio, ex governatore del Lazio, diciamo. Non esclude, vediamo, chissà. La possibilità di ricandidarsi alla regione. Noi tra 5 minuti ripartiamo da due vicende di cronaca che riguardano due paesi della Lombardia, uno più una città, Brescia, e una cittadina, Cavenago di Brianza. Fatti simili a Cavenago alcuni genitori che non pagano la retta scolastica delle mense dei bambini si ritrovano i bambini a mangiare separatamente rispetto agli altri bambini. Mentre a Brescia i Rom che non pagano più il servizio scuola bus del comune si sono visti sospendere il servizio stesso e quindi i loro bambini devono fare 2 chilometri a piedi per andare a scuola. Allora, solo annunciando il tema di cui stiamo per parlare, via sms al 349-238-6666 stanno arrivando tantissimi messaggi, un profluvio di messaggi, devo dire già a dire... basta, siamo stanchi noi di pagare. Chi è moroso, cioè chi non paga le rette scolastiche per le mense, è giusto che gli si dia pane e acqua ai bambini. Basta, insomma, pagare per altri. Bisogna iniziare da queste piccole cose. Di cosa vogliamo parlare? Appunto, come preannunciato, abbiamo un sindaco di una cittadina in provincia, una provincia che tra l'altro forse scomparirà, credo, Monza e Brianza. Il sindaco di Cavenago di Brianza, Sam Galbiati, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. È il Partito Democratico e abbiamo il vice sindaco di una città più importante, numericamente più importante, Brescia. Buongiorno a Fabio Rolfi della Lega. Buongiorno, buongiorno a voi. Vice sindaco della Lega in una giunta PDL Lega. Allora la storia è questa: a Cavenago ci sono dei bambini che, i cui genitori sono morosi, non pagano la retta scolastica, la mensa, e quindi mangiano separatamente i loro bambini, e a Brescia invece, la dico per sommi capi, poi ce la spiegherete voi, a Brescia ci sono un gruppo di Rom che non pagano il servizio scuola bus per i loro bimbi e quindi il comune ha sospeso il servizio scuola bus e i bimbi devono farsi un po' di strada a piedi, secondo resoconti anche passando vicino alla autostrada, vicino ai tir, eccetera, per andare a scuola a piedi. Come detto, Partito Democratico, Lega, i nostri esponenti. Intanto, sindaco Galbiati, è così? Ci spieghi numericamente qual è la questione? Quanti sono i bambini che mangiano separatamente a Cavenago? Allora, la questione è leggermente diversa, è sostanzialmente diversa. Noi abbiamo avuto da parte di Sodexo, che è la società che gestisce la mensa, la comunicazione che dal 16 settembre avrebbe sospeso il pasto a 120 famiglie che avevano un debito maggiore a 50 euro. Sì. Noi abbiamo contattato come amministrazione pubblica tutte 120 le famiglie per trovare con loro una soluzione. C'è chi ha pagato, c'è chi non ha potuto pagare perché era davvero in grave crisi economica e quindi preferiva consumare il pasto a casa. Poi c'è chi invece voleva consumare il pasto a scuola perché a casa non c'era nessuno. Pur non pagando. Pur non pagando. Cioè c'era chi non voleva pagare ma voleva che il bambino consumasse il pasto a scuola. No, diverso. C'è chi voleva dare il pasto da casa al bambino da consumare a scuola. E quindi non pagare la mensa. A seguito di un regolamento di igiene dovevamo recuperare uno spazio diverso perché i pasti che arrivano dall'esterno non possono essere consumati all'interno della stessa area dove ci sono i pasti. Sì, questo per un motivo di ASL, però lei me la riduce a una questione di igiene. Sa che in un articolo sulla Stampa qualcuno ha già definito, qualcuno in paese definisce questo locale separato per i bambini il ghetto, chiaramente esagerando, questa per carità è una prova, però questo è, sindaco. No, diciamo così, questo è un grave errore perché noi abbiamo dato, ci siamo sforzati per dare una risposta a quelle famiglie che non possono permettersi 4,20 euro al giorno di buono mensa, però vogliono mandare lo stesso i figli a scuola e fargli consumare il pasto. Noi vorremmo fargli consumare il pasto nello stesso tavolo in cui lo consumano i suoi compagni di classe, ma in questo momento le norme sembra che lo vietano. Noi a questo punto realizzeremmo o quantomeno dedicheremmo uno spazio altrettanto dignitoso come è lo spazio che utilizzano attualmente i bambini che usufruiscono. Cioè per una questione di igiene, perché l'ASL impedisce di portare, chi porta il cibo da fuori non può consumarlo nella mensa dove è controllato dall'ASL. Ma lei, voglio dire, come risponde alle accuse di discriminazione, nel senso che sostanziale, cioè si trovano dei bambini che gli si dice a un certo punto, beh, voi dovete mangiare separatamente, è chiaro, non gli si spiega forse il perché, però voi dovete mangiare di là, mentre tutti gli altri mangiano di qua. Allora, diciamo così, la richiesta è arrivata direttamente dai genitori, quindi diciamo noi seguiamo una richiesta che arriva direttamente dai genitori. Io però pongo un altro problema, rispetto al tema della crisi e la difficoltà che vivono i comuni che non hanno più soldi e le famiglie in questo momento qua, io vedo che i sindaci sono abbandonati a se stessi perché nessuna istituzione e, come posso dire, nessun partito se ne sta occupando organicamente, perché è chiaro, quando si parla di bambini tutti hanno paura di scottarsi, generalmente tutti se ne preoccupano ma nessuno se ne occupa, e questo diventa poi un problema che viene scaricato sulle amministrazioni, le quali danno una risposta in un senso o nell'altro. La risposta che vogliamo dare noi a Cavenago è quella di permettere ai bambini di andare a scuola, e qualora le famiglie non hanno i soldi per pagare il buono pasto, giustamente l'azienda, giustamente la multinazionale in questa cosa qua ha fatto la scelta di non dargli il pasto, ma noi dobbiamo permettergli di poter consumare lo stesso pasto a scuola portando solo dice pagare il comune, no, non ci sono soldi, per carità, è un momento difficile. Allora, un piccolo inciso, il comune già interviene con 20.000 euro all'anno di acquisto di buono pasto per le famiglie a reddito zero, e noi ne abbiamo un po' a Cavenago a reddito zero. I 25.000 euro che ci chiede la multinazionale, che nei primi 20 giorni di scuola sono già diventati 28, sono già accumulati ulteriori 3.000 euro di debiti, non possiamo affrontarli perché non ne abbiamo. Noi non abbiamo finito il mese di settembre i fondi per le famiglie a reddito zero. Insomma, questa è la situazione. Tra l'altro ricordiamo 4,20 euro è il costo giornaliero di questa mensa che alcuni genitori non pagano e dicono non ce la facciamo. Questa è la versione loro, ovviamente. Mi faccio andare allora a Brescia per raccontare, per sommi capi, quest'altra vicenda. Da quando, vice sindaco Rolfi, voi avete sospeso il servizio scuola bus a quanti poi bambini? All'inizio di questo anno scolastico circa una novantina di bambini. Tenga presente che il servizio scuola bus, per quanto riguarda una parte di queste, scuola materna, è un servizio esclusivo, unicamente erogato solamente alla comunità Rom e Sinti a Brescia, nel senso che nessun'altra famiglia straniera o italiana residente a Brescia ha mai avuto la possibilità di una scuola bus che lascia prendere i bimbi a casa per portarli a scuola. Ma perché l'avete sospeso? Non pagano. Perché sono morosi da 10 anni. Hanno accumulato indicativamente circa 150.000 euro tra rette di scuola materna, mensa e scuola bus. Quindi parliamo di servizi che la legge definisce non essenziali. Per quanto riguarda l'attività didattica. E come mai arrivate ora? Cioè a questo punto avete detto, dopo 10 anni non ce la facciamo più a sostenere. Siamo arrivati ora, prima la necessità comunque di razionalizzare la spesa pubblica, anche a Brescia che è una città più grande di quella del collega amministratore, ma comunque deve fare economia, deve fare efficienza, e anche perché queste famiglie hanno rifiutato qualsiasi proposta di rateizzazione e di rientro del debito che noi offriamo alle persone morose prima di andare a spendere servizi. Solamente ieri, a fronte della polemica che è sorta, che è nata un po' strumentale sulla vicenda. Perché lei dice strumentale? Cioè, si è messo insieme la Lega, i Rom, i Sinti? Sicuramente questo alimenta anche i circuiti mediatici. Ma è da un dato, Brescia eroga servizi scolastici non essenziali a 11.000 famiglie. Sono stati sospesi circa 400 famiglie morose dell'accesso a questi servizi, ecco, solamente per i Rom e per i Sinti sono 90 persone, è scoppiata la polemica. E le altre? Senta, come risponde a chi dice questi bambini andando a piedi rischiano anche l'incolumità? Ecco perché esiste un vialetto pedonale protetto da handrail che consente a questi bambini, come tra l'altro fanno ogni giorno per andare nel quartiere a fruire dei servizi che il quartiere offre, di accedere a scuole in modo protetto, vialetto che peraltro viene ulteriormente sistemato. Ma a parte questo aspetto ho risposto mostrando alla stampa, ai giornalisti della città, l'elenco delle macchine che i genitori hanno. In realtà non è vero che non hanno i soldi. Senza andare poi a fare considerazioni simpatiche che potremmo fare sui Mercedes, su BMW, sulle Volkswagen Passat e altro che ci sono in quel campo, ma parlando anche delle macchine più semplici, più diciamo da persone normali, c'è la possibilità di accompagnare il figlio a scuola, andare a riprenderlo come fanno tutte le famiglie bresciane o straniere che abitano in questa città, facendo sacrifici, correndo come dei matti, ma questa è la vita, la responsabilità che deve avere un genitore. Ricorda l'anno scorso ci fu una polemica politica che travolse la Lega con le polemiche, il sindaco di Adro, no? che era della Lega. Ecco, lei che effetto le fa, vice sindaco di Brescia della Lega Rolfi, sapere che anche un sindaco di Cavenago del Partito Democratico si pone questo problema? È una questione anche legata ai partiti oppure è una questione, lei dice, solo strumentale? C'è sempre la strumentalizzazione. Io penso che i sindaci, indipendentemente dal colore politico, se la persona di buon senso, condividono gli stessi problemi. Condividono gli stessi problemi e anche lo stesso senso di giustizia sociale, cioè devono mettersi nei panni delle tante famiglie che con difficoltà adempiono a un dovere che hanno, l'educazione dei figli, e a un dovere civico che è pagare i servizi. Magari anche, lo ripeto, rateizzando, concorrendo piene di rientro, con mille sacrifici, non possiamo più tollerare situazioni di questo genere, neanche se riguarda la volontaria. Voglio dire anche una cosa che è sfuggita: in quel campo nomadi, parlo sempre di Brescia, vi sono 5 famiglie, sono poche, ma ce ne sono 5, che sono in regola con i pagamenti e il figlio alla mensa è ammesso. Io credo che bisogna far emergere anche all'interno di queste comunità il buono che c'è, perché altrimenti, finché saranno beneficiari di un assistenzialismo perpetuo, di un buonismo un po' così ideologico, non sono mai avviata l'integrazione vera e propria, che si basa anche sul rispetto delle regole. Dice, questo buonismo non le piace più, visto che c'è gente invece che paga all'interno dello stesso campo. Con noi Sam Galbiati, sindaco di Cavenago di Brianza, del Partito Democratico, e Fabio Rolfi, vice sindaco leghista di Brescia, per parlare di queste vicende di cronaca. Ci sono tanti ascoltatori, vorrei sentire Christian da Roma, ci ha chiamato. Buongiorno Christian. Buongiorno. Che pensa? Beh, io rimango allibito, cioè prima sentiamo le situazioni che crea questo Stato e poi nella scuola dell'obbligo devo sentire che il bambino non pagherà perché i genitori non pagano la retta della mensa che gli dovrebbe essere di diritto. Non viene fatto mangiare. Beh, Christian, di diritto se uno paga. Cioè, di diritto. Se uno paga 4 euro. La scuola dell'obbligo, lo Stato dovrebbe impegnarsi, anziché mangiarseli i soldi, lo dovrebbe fare. Io devo portare a scuola di mio figlio, devo portare la carta ai colori ad una materna per poter permettere di far fare qualcosa ai bambini. Cioè, lei contesta il principio, addirittura secondo lei dovrebbe essere gratuita la mensa, mensa gratuita, perché è scuola dell'obbligo. È un obbligo dello Stato, quindi è un dovere dello Stato, è un nostro diritto che i bambini vengano, vadano a scuola e vengano cibati. Però le chiedo questo, visto che c'è un'azienda esterna ovviamente che provvede al pranzo, dovrebbe pagarla lo Stato? Quindi assolutamente sì, la dovrebbe pagare la Polverini, prima il suo ospite Storacio, che forse si è dimenticato, e qualche tempo fa c'era lui al posto della Polverini. E come no? Lo scandalo di Lady Hustle, forse lui se l'è dimenticato. Io no, perché ho anche un bambino disabile. E poi ecco, cioè loro ci mangiano i soldi e a noi ci tolgono l'assistenza a scuola per i bambini disabili. È assurdo, è uno stato assurdo. Questa è una vicenda diversa, quella dei bambini disabili, ed effettivamente scandalosa. Ci sono storie che immagino anche lei, visto che ci ha detto un figlio disabile, ci potrebbe raccontare. La ringrazio Christian, prendo questo spunto per essere ancora più qualunquista, se si vuole, e chiedere al sindaco di Cavenago, Sam Galbiati: basterebbe una cena in meno di un qualsiasi consigliere regionale di qualsiasi regione per sistemare tutto questo casotto, no? Io non penso che il problema sia lì, io penso che il problema sia un po' nel manico, e come si diceva prima, è affrontare il problema del funzionamento delle istituzioni. Allora, se la scuola deve funzionare, deve avere probabilmente dei servizi che devono essere erogati in questo momento in una maniera, come possiamo dire, organizzata e credibile. Se in Italia in questo momento qua la crisi non ci permette di poter affrontare il buon passo della mensa nel dettaglio, per esempio in Inghilterra, a Newcastle o in Finlandia, il pasto non lo portano da casa. A me interessa di più che a scuola funzionino i servizi. No, questo sì, però sindaco, quello che ci voleva dire l'ascoltatore, che è il sentimento penso di molti, è con quello che per buttarla appunto così vediamo che ci rubano i politici adesso, 4,20 euro, non lo dico a lei come amministratore, ma 4,20 euro per far mangiare un bambino, si può provvedere anche a trovarli o no? Sì, io, e quello che intendevo dire, io sono d'accordo col telespettatore, sono d'accordo che il buono pasto alla scuola dovrebbe essere, se decidiamo che il buono pasto è un attimo in cui si fa anche attività aggregativa ed educativa, allora deve essere garantito. In questo caso qua bisogna trovare le risorse all'interno dello Stato, e probabilmente la politica deve dare per prima un segnale di attenzione, evitando gli scandali che vediamo ogni giorno in televisione. Posso fare una piccola riflessione? Sì. su come a volte vengono poi viene reclutato il personale politico. Noi sabato sera avevamo a Capenago Don Ciotti. Don Ciotti ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo: fin quando i politici non ripartono dalla strada non avranno più la sensazione delle esigenze delle persone. Questa è una cosa fondamentale. È chiaro che a noi sindaci ci tocca un po' di più, perché noi, i cittadini in difficoltà, come il signore, le persone che non hanno assistenza, sì, sì, per le persone disabili, ci ritroviamo di fronte alla scrivania. È chiaro che uno sta, che sta in regione e probabilmente, diciamo, butto anch'io un po' sul populismo, si mangia le ostriche, che si beve lo champagne, probabilmente queste persone qua non le vedono, né percepiscono. Su questo, vice sindaco Rolfi, vuole anche lei commentare? Poi ci sono altri ascoltatori, l'ascoltatore che dice dovrebbe essere gratuito tutto questo, non so se anche per i figli dei Rom. Ma la scuola materna non è una scuola dell'obbligo. Vabbè, ma in questo caso è elementare, a Cavenago però è elementare. Ma guardi, cambiando completamente il sistema se ne può anche parlare, non c'è soltanto lo spreco della politica, per quanto mi riguarda si potrebbe tagliare finanziamento pubblico, finanziamento ai gruppi consigliari regionali, sono d'accordissimo. Il mio partito tra l'altro l'ha già proposto questo, ma a parte questo aspetto è lo Stato complessivamente che non funziona, però la storia non si fa con i sé, finché non si cambiano le regole del gioco bisogna lavorare con le regole che ci sono, quelle che ci sono io credo che per un senso di giustizia chi è in difficoltà, perché si trova in situazioni di morosità volontaria e involontaria va aiutato, e questo tutti i comuni governati da sindaci del PD, della Lega o di altri partiti lo fanno. Chi è in situazione di morosità volontaria, non vuole pagare, apro parentesi, il caso del Rom di Brescia, nonostante lo scuolabus che andava a prenderli da 10 anni ogni giorno, avevamo un tasso di assenza scolastica superiore al 30%. Cioè, quindi manco veniva alla scuola. Il che va a prenderli non andavano a scuola. Quindi questo è un caso diverso. Quindi dice anche uno spreco. Mi faccia sentire Antonio da Milano che ci ha chiamato. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, praticamente l'ascoltatore precedente mi ha tirato via tutto. Cioè, vice sindaco di Brescia o l'ascoltatore di prima? L'ascoltatore di Roma. Poi sono d'accordo con il vice sindaco di Brescia per quello che fa, perché ha ragione. Cioè, no, queste persone non si possono permettere di andare in giro con i macchinoni e dopo non pagare in scuola, buso. Non lo vedo proprio giusto. Per quanto riguarda il sindaco di Cavenago, se riuscirebbe a fare qualcosa per queste famiglie forse sarebbe una buona cosa, perché c'è chi mangia ostriche che beve champagne ci sono le famiglie che non pagano la retta perché magari o non hanno lavoro o non vengono pagati come sottoscritto o comunque hanno difficoltà veramente. Sì, non però Antonio, non mettiamo pagare. Io capisco che adesso le ostriche e champagne, però adesso non voglio difendere il sindaco, che c'entra il sindaco di Cavenago con la questione ostriche e champagne, che immagino scandalizza anche lui, però il concetto è caro sindaco, siamo sempre lì, lei dice l'amministrazione comunale non ha più soldi, non ce la facciamo, e i comuni sappiamo sono in difficoltà, però la gente dice ma con tutti i soldi che girano nella politica non si trova niente, toglietevi il gettone di presenza in consiglio comunale, che ne so. Posso dare una risposta veloce? Tenga conto che un mio assessore prende grosso modo 320 euro al mese, si fa carico di tutte le spese, spostamenti con l'auto. Quindi non è lì che si annidano gli sprechi della politica su cui risparmiare per pagare la scuola, le dice. Allora, sicuramente l'amministrazione pubblica e il sistema politico all'interno di questi due di queste due situazioni si annidano dei grossi sprechi. Sì. E quello che dicevo prima, le ostriche e lo champagne sicuramente è uno spreco. Colpiscono, non sto dicendo che quello non sia uno spreco. Sto facendo un altro tipo di ragionamento. Se l'approccio che vogliamo prendere è un approccio sistematico, allora dobbiamo vedere altri tipi di situazioni. Le faccio un esempio molto... Ma devo chiudere. No, se lo tenga l'esempio, purtroppo devo chiudere, se no sforo. Ma intanto vi ringrazio, tanto è stata molto chiara la vostra esposizione sia al sindaco di Cavenago, Sam Galbiati, e il vice sindaco di Brescia, Fabio Rolfi. Ritrovate tutto su radio24.it, seguiteci su Twitter 24 Mattino, Alino Milan sono io, grazie a Elisabetta Fusconi in redazione con Alessandro Longoni e Peter Bescapè in regia. A domani alle 6.30.